quello di cui vorrei raccontarvi oggi è un po' come IBM vede l'approccio e l'opportunità del cloud computing, fondamentalmente gli aspetti di servizio e di business e noi come ci stiamo muovendo all'interno di questo mercato. Introdurremo un po' gli aspetti architetturali. Gli aspetti architetturali sono fondamentali per noi che siamo comunque un'azienda che occupa il mercato dell'IT a 360 gradi e serve avere, appunto, visto che il cloud è comunque tocca un po' tutti questi aspetti, avere una scaffalatura comune dove posizionare i prodotti, quindi serve a noi ma serve soprattutto anche ai clienti per orientarsi nel costruire poi una soluzione. Quindi cloud computing come nuovo stile di computing, un nuovo modello fondamentalmente a disposizione dell'IT per fare del sourcing, per approvvigionarsi di tecnologia all'interno appunto dei propri servizi. Questo modello si spalma all'interno di tutto la pila delle soluzioni all'interno dell'IT. Vediamo un po' di adesso classificare i vari modelli di delivery del cloud computing appunto per coglierne poi anche le opportunità. All'interno del cloud sono già stati identificati questi modelli di private cloud, quindi un modello per erogare l'IT all'interno dell'azienda secondo questo nuovo paradigma, quindi fine granularità, self-service da parte degli utenti, quindi accesso diciamo semplice attraverso tecnologie web 2.0 internet. La fornitura comunque di questi servizi da fornitori esterni, quindi un outsourcing diciamo avanzato, accedibile attraverso internet, quindi servizi di public cloud, affiancati ai servizi comunque IT tradizionali. Bene, all'interno di questo vediamo che ci sono una serie di varie possibilità, quindi unendo l'IT dell'impresa con opportunità di sourcing esterne e la possibilità da parte di chi offre dei servizi di cloud pubblici di organizzarsi utilizzando le componenti tecnologiche che gli vengono messe a disposizione dai vari fornitori. Ecco un modello che poi appunto si proporrà in questa unione dei cloud interne, le private e quelle esterne, sarà il concetto di cloud ibride, appunto in cui su ambienti omogenei e anche disomogenei verranno unite le possibilità appunto di acquisizione di tecnologie secondo questi modelli. Quindi come entrare nel cloud? Vediamo qua come viene costruito un modello, quindi alla base infrastruttura, in cui è classica accezione di cloud provider, fornisco server virtualizzati, storage virtualizzato, eccetera. Un fornitore di platform o middleware as a service, oppure appoggiandomi ancora su questa infrastruttura, posso fornire modelli di tipo software as a service, fino a raggiungere il mio utente finale. Bene, questo modello è un modello tipicamente che può essere caratterizzato e associato a nuovi modelli di business, tipo produttore-consumatore, per creare il proprio stack IT e implementando diversi modelli di business. Qua ve ne voglio accennare appunto un esempio, che per esempio facciamo noi IBM. Quindi IBM si pone sul mercato come fornitore di software as a service con un'infrastruttura nascosta, quindi non si appoggia ad altri provider per realizzare questa sua soluzione e permette di mettere a disposizione software di collaborazione in questa modalità. Un altro modello interessante, inizialmente indirizzato unicamente per gli sviluppatori, è quello di, appoggiandosi a un cloud service provider esterno di infrastruttura come Amazon, Amazon Elastic Cloud Computing, IBM mette a disposizione su questa infrastruttura le proprie soluzioni di software nella forma di macchine virtuali preinstallate, quindi di application server, database server, eccetera, che possono essere appunto prese, acquistate, utilizzate nelle modalità fornite da Amazon per sviluppo oppure realizzare prototipazione. Questo è il primo step. Quindi modelli anche innovativi per offrire la propria tecnologia. IBM si è dato un'architettura. Fondamentalmente all'interno di questa architettura l'abbiamo suddivisa in tre ambiti principali. La parte sulla destra fondamentalmente è quella focalizzata allo sviluppo delle tecnologie che mi permettono di creare il servizio che andrò a erogare sul cloud. Quindi accesso a un catalogo di servizi da parte dell'utente finale, abilitazione alle modalità di self-service per acquisire la tecnologia e appunto interazioni anche per la gestione del ciclo di vita del servizio. In mezzo a questi due, la costruzione e la fruizione, c'è appunto il modello di erogazione del servizio stesso, su cui ci sono le tecnologie appunto che sviluppa IBM, quindi l'ambiente operativo di runtime del cloud. Fondamentalmente alla base abbiamo l'infrastruttura virtualizzata, la parte tecnologica di hardware messa a disposizione da IBM, e fondamentalmente il nostro obiettivo all'interno del cloud computing in questa fascia è quello di fornire soluzioni facilmente integrabili in questo modello. Quindi server altamente virtualizzati che vedremo nel breve futuro prenderà appena un nuovo concetto all'interno di questo spazio, che è il cosiddetto concetto di ensemble. Noi vedremo la possibilità di aggregare più server, più unità di storage, più unità di network, eccetera, quindi risorse omogenee, fisicamente però separate, all'interno di un unico concetto che semplificherà notevolmente la gestione. Quindi si vedrà questi cluster di macchine come se fossero, dal punto di vista di gestione fisica, un'unica unità. Entriamo all'interno delle soluzioni, qual è il nostro portafoglio? Fondamentalmente nello spazio del cloud computing noi forniamo dei cosiddetti building blocks. Per chi si volesse costruire la propria cloud o una cloud privata o diventare un player, quindi un operatore all'interno dello spazio cloud secondo le varie modalità che abbiamo visto, IBM mette a disposizione appunto queste componenti di costruzione. Quelli, diciamo, sono dei software che caratterizzano particolarmente questa soluzione. Il primo è il TISM, Tivoli Service Automation Manager, il Tivoli Provisioning Manager, più le virtualizzazioni della tecnologia hardware che viene fornita da IBM. E come ultimo, Relational System Architect, uno strumento a supporto per la governance, il disegno e lo sviluppo dell'Enterprise Architecture. Ecco perché lo posizionano in questo modo, di cui il cloud computing diventerà e sta diventando una componente, diciamo, fondamentale. Tra tutti questi ne ho scelto uno per darvi un'idea di che cosa realizza un po' il Tivoli Service Automation Manager. Tivoli Service Automation Manager mi permette di definire dei servizi all'interno della mia offerta dell'azienda, questi quindi catalogarli, avere una gestione di un versionamento anche di questi servizi, definendo diversi ruoli e responsabilità nella fruizione di questi servizi e quindi diversi punti di vista del servizio stesso. Quindi posso definire delle topologie anche complesse della costruzione del mio servizio, quindi web server, application server, database server configurati e collegati tra loro, e quindi poter gestire l'erogazione di questo servizio all'interno dell'infrastruttura, diciamo, poi operativa cloud, e gestirne il ciclo di vita. Siamo in un momento in cui il cloud computing sta effettivamente catturando l'attenzione di tutti noi, che magari non tutte le aziende sono pronte, anche dal punto di vista di competenze, skill interni, per poter partire subito in questo spazio. Per questo abbiamo deciso di affrontare in questa fase quindi l'implementazione del cloud computing attraverso delle soluzioni cloud, che possiamo chiamare acceleratori, delle cose già preconfigurate. Sono l'IBM Cloud Burst, il WebSphere Cloud Burst e poi, come avevo già accennato prima, anche un approccio di software as a service che è Lotus Live. Cos'è l'IBM Cloud Burst? È già una soluzione preconfigurata e integrata per poter gestire questa infrastruttura hardware in modalità cloud, quindi offrire un portale agli utenti finali, quindi installare e configurare questo oggetto preconfigurato all'interno del proprio IT e poter fornire agli utenti finali un'interfaccia, un portale web per poter accedere dinamicamente a questi servizi. Noi vediamo un esempio che è IBM WebSphere Application Server Hypervisor Edition. Questa modalità invece di Hypervisor Edition c'è un impacchettamento con un sistema operativo quanto basta, un Linux, in un'immagine virtuale, con tutte le componenti che servono appunto all'erogazione di un servizio WebSphere. Bene, basandosi su questa modalità di erogare il software, IBM ha creato una soluzione che si chiama WebSphere Cloud Burst. WebSphere Cloud Burst è un appliance, quindi è un oggetto all'interno dell'intelligenza che non viene gestita direttamente dall'utente, ma l'utente appunto ne può fruire i servizi, nelle quali sono stati inseriti tutti i modelli che abbiamo visto prima nel Cloud Burst per l'erogazione e la gestione del ciclo di vita di topologie WebSphere. Il primo approccio che IBM sta facendo in questo spazio del software as a service direttamente è su una particolare suite di software che è praticamente quella che copre tutti i servizi di virtualizzazione. Intende fornire alle varie imprese attraverso internet l'accesso alle funzionalità di software di livello enterprise ad aziende che appunto vogliono approcciare questi servizi innovativi attraverso internet in modalità cloud. Vorrei farvi l'elenco di tutte, ne ho scelte alcune, però non sono solo queste. Diciamo che fondamentalmente IBM all'interno del cloud c'era già un po' da tempo, con modalità che prima non si chiamavano ancora cloud, ma che di fatto si ispiravano, hanno ispirato poi questo modello. Quindi noi ci proponiamo sul mercato con anche tutta una serie di servizi per aiutare le imprese a costruire i propri cloud e poi soluzioni magari per specifici settori d'industria. Quali sono anche le capacità e le iniziative che IBM ha messo in campo? Fondamentalmente abbiamo tutta una serie, abbiamo visto, di servizi e di tecnologie, ma fondamentalmente anche servizi di consulenza, di trasformazione e anche di erogazione dei cosiddetti as a service nel campo un po' allargato dell'infrastruttura. Un esempio di applicare, quindi un modello di business che abbiamo applicato all'interno di questo spazio, è per esempio il cloud center cinese che abbiamo realizzato, finalizzato alla creazione di un'infrastruttura per un ambiente di sviluppo software e test. La Cina voleva far partire un distretto industriale per aziende innovative, start-up e così via. E è stato pensato che nessuna di queste aziende, anche per abbassare il livello di ingresso e quindi aumentare la capacità di innovazione all'interno di questo spazio, di non obbligare a questa azienda a fare grossi investimenti nell'infrastruttura. Quindi è stato creato un cloud al servizio del distretto, sul quale, quindi implementato secondo quell'architettura che abbiamo visto, al quale le varie aziende potevano accedere in modalità self-service per iniziare le loro operazioni. Dal punto di vista di cloud computing ci stiamo organizzando a livello worldwide con dei centri di competenza specifici per ogni geografia e in particolare nella geografia europea abbiamo un centro di cloud computing a Dublino che appunto è organizzato per fornire e esplorare in anticipo un po' sul mercato tutte le possibilità tecnologiche e di business che offre questa nuova tecnologia. Abbiamo visto le varie classificazioni e ho cercato di posizionare all'interno di questa classificazione le varie offerte che vengono date da IBM nelle varie modalità, sia come building block che come servizi finali da poter essere fruiti dai clienti. Qua nel ringraziarvi volevo darvi anche una mia prospettiva un po' sul cloud. Il cloud è sicuramente sia all'interno delle aziende che come modalità di sourcing esterna una grossa opportunità per le aziende. Bisogna ancora farci un po' il gusto nel capirlo bene, come impiegarlo al meglio all'interno delle aziende. E ci sono delle problematiche anche nuove che devono essere affrontate, quindi come gestire, per esempio, da quelle più tecniche, come gestire bene la gestione dei problemi all'interno di un'infrastruttura, la risoluzione di problemi in un'infrastruttura di questo genere, o rispetto a normative, quindi nuove sfide e nuove opportunità sicuramente in questo spazio. Grazie a tutti.